Allora, siamo in onda con Emanuele Colandrea, un cantautore, un artista, un musicista che ha presentato da poco il nuovo album che si chiama Belli Dritti sulla Schiena. Intanto, domanda per cominciare, rompere un po' il ghiaccio. Intanto, benvenuto e come stai? Bene, bene, dai, sto abbastanza bene. Ciao a tutti. Io ti chiederei invece, a parte come stai, che giustamente insomma è un'ottima domanda per iniziare, qualcosa sul titolo di quest'album, perché ricordiamo che l'album è uscito l'11 marzo, quindi pochissimo tempo fa, è il tuo quinto lavoro in realtà che arriva dopo due album, due EP e appunto questo nuovo lavoro che ha questo titolo che a me è piaciuto tantissimo, Belli Dritti sulla Schiena, quindi cioè, un po' uno sprone, anche una roba posturale, no? Cioè dobbiamo stare dritti. Ti chiederei come mai hai scelto questo titolo? Belli dritti sulla schiena, in realtà serve anche un po' ad esorcizzare il mio mal di schiena. Ho avuto un po' di problemi con la schiena nell'ultimo anno e per caso avevo questa canzone già scritta che si chiama proprio Belli dritti sulla schiena, quindi mi è sembrata la soluzione perfetta per ricominciare con il disco. Perfetto, avrei pensato a tutto tranne che a questa risposta, ti È giuro. vero. È bellissimo, mi piace tantissimo. E, oltre, vabbè, a questa canzone, c'è anche, in realtà ci sono 10 canzoni all'interno di quest'album, tutte molto carine, a me sono piaciute molto. Tra l'altro una che ha anche il mio nome, Erika, che è una canzone spudoratamente dedicata, hai detto. Però, insomma, al di là di questa canzone che io l'ho sentita come presa in causa, che storia racconti con questi 10 brani? Guarda, abbiamo scelto i brani insieme al mio produttore artistico, che è Pier Cortese, e ci siamo accorti solo dopo averli scelti, insomma, tra quelli che gli ho proposto, che erano tutti brani scritti in prima persona, e quindi, però senza avere, come dire, la vanità di essere autobiografici. Cioè, parlano in prima persona, ma in realtà è più per avere uno sguardo sul mondo comunque, anche se sono scritti in prima persona. Okay. Quindi uno sguardo da parte di Emanuele Colandrea che sta dritto con la schiena perché c'ha male, Esatto, raccontato provo a dal tuo starci punto di quantomeno. vista. Ok. Abbiamo già una linea per capire meglio questo album. Allora, la tua carriera solista, appunto, come dicevamo, ha due album e due EP all'attivo e adesso l'uscita di Belli Dritti sulla Schiena. Musicalmente, com'è cambiata appunto la tua musica in questi anni e in particolare magari quali sono un po' le influenze nel tuo ultimo lavoro? L'ultimo lavoro, diciamo appunto, mi sono appoggiato per la prima volta in realtà ad un'altra persona per la produzione artistica, proprio perché volevo andare ad esplorare qualcosa di nuovo fuori dalla mia zona di comfort, insomma, che è stata sempre quella del folk, della chitarra e della voce fondamentalmente, e degli strumenti acustici. Quindi volevo andare un po' a sperimentare in quel mondo dell'elettronica analogica fatto di tastiere, che comunque mi ha sempre affascinato, ma di cui io ci capivo ben poco. Quindi mi sono così aggrappato a Pierre in questo e diciamo che il mondo che abbiamo cercato di tirare fuori è quello insomma un po' del folk moderno, che so io da Bon Iver o cose del genere, insomma. Ovviamente poi il disco non so mio, è un disco di Bon Iver per capirci il tipo di suoni, ecco. Prima di iniziare questa intervista abbiamo sentito già un tuo pezzo, Un treno preso a Velletri. Io ti chiederei se ti va di scegliere un altro pezzo da ascoltare adesso, così ci racconti, ci fai scoprire anche tu, appunto, Belli Dritti sulla Schiena e poi torniamo da te. Mettiamo ok, Emanuele. Perfetto. Ok, Emanuele. Ok, Emanuele, vai. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato è quella che ha anticipato, no? È stato il singolo che ha anticipato l'uscita di Belli Dritti sulla Schiena. A me il titolo ha fatto ovviamente subito simpatia e anche un video molto interessante. Ti chiederei però di raccontarci tu, dal tuo punto di vista, che cosa racconta questa canzone? Ok, Emanuele, un po' io tra le note, no, de lui che mi chiese l'ufficio stampa, ho scritto se fossi stato di Bologna l'avrei chiamata l'avvelenata. È un po' la mia avvelenata, diciamo, se proprio vogliamo fare dei parallelismi con l'Emilia Romagna, appunto, perché sono partito credo, dallo stesso tipo di sentimento, di approccio nello scrivere il pezzo, no? Quando tutti ti vengono a puntare il dito su quello che fai, ma soprattutto amici anche, no? Ti voglio insegnare su come si scrivono le canzoni di successo, ecco. E quindi da lì, ironicamente, ho preso al balzo la cosa perché mi dicevano tutti che con queste chitarre erano un po' passate di moda e io invece ho riempito il disco di chitarre e la prima strofa della canzone, appunto, è ok, ma non le piantare queste chitarre, non lo vedi che non vanno più di moda. E da lì sono partito per la tangente e sono andato avanti. Suonando un sacco di chitarra, cioè chitarre dappertutto. Sì, insomma, con moderazione, ma ci sono. Beh, giustamente, anche perché la chitarra secondo me non passa di moda, cioè non Mai. la vedo, non la vedo come una cosa che può passare di moda. No, ma non ha senso proprio dire una cosa del genere, però vabbè, queste sono altre storie. E vabbè, ma quello va bene. Andiamo oltre a queste cose che ti hanno detto, ma giustamente tu hai tirato dritto per la tua strada e hai fatto bene, perché è nato quest'album che a noi è piaciuto tantissimo e all'interno del quale, appunto, dicevamo ci sono tante influenze. Io ti chiederei a livello musicale, visto che a noi è sembrato di sentire delle influenze, nazionali ma anche internazionali, quali sono gli artisti che hanno, insomma, in un qualche modo hanno lasciato un segno all'interno della tua formazione musicale che sono presenti all'interno di quest'album? Oltre a Bon Iver. Oltre a Bon Iver, che Oltre a insomma Bon abbiamo detto Iver, prima. esatto. Guarda, cito il mio guru di sempre che è Bob Dylan. Io vengo da lì, insomma, da quando ero adolescente, post-adolescente, ho cominciato con i primi dischi di Dylan e poi da lì tutti i vari così, eredi suoi li ascolto, come dire, con molta curiosità. Per quanto riguarda invece artisti nostrani, diciamo che tra tutti i cantautori sono un De Gregoriano. Ecco, se ne devo scegliere proprio uno, scelgo De Gregori, che poi è il Fantastico. figlioccio di Dylan italiano, tra l'altro. Giusto. Insomma, viene tutto un po' da quel filone lì che, insomma, avercene, diciamo. In quest'album, tra l'altro, ci sono anche degli ospiti e delle collaborazioni. Quindi ti chiederei se vuoi raccontarcele un po' chi sono questi ospiti, come sono nate queste collaborazioni anche. Guarda, vi ho citato prima Pier Cortese perché ci conosciamo da anni e mi erano piaciute le produzioni che aveva fatto ultimamente, insomma, specie quella che ha fatto con Niccolò Fabi e quindi ho deciso un po' di intraprendere la strada con lui anche per un'amicizia, insomma, che dura oramai da 20 anni. E poi nel giro, insomma, di Roma ci sono un po' di chitarre di Roberto Angelini che comunque ha sempre quel suo mondo delle slide a proposito di chitarre che è sempre molto interessante. Tornano Poi c'è sempre Filippo le chitarre. Cornaia, esatto. Poi c'è Filippo Cornaia, Fabio, insomma tanti amici che nel tempo, mentre registravo cose, ho così attirato anche con l'inganno nel mio studio e quindi mi sono ritrovato un po' di partecipazioni molto gradite. Fantastico. Allora, intanto ricordiamo che siamo al telefono con Emanuele Colandrea, che Ci visto, fossimo magari uno distratti, si è dici? connesso adesso alla radio. Giustamente. L'album si chiama Belli dritti sulla schiena. E volevo chiederti: c'è la possibilità nel prossimo futuro di vedere dal vivo, di ascoltare dal vivo i brani di questo album? Hai delle date in programma? Ne arriveranno? Sì, abbiamo cominciato a lavorarci da poco, in realtà però ci sono già un po' di cose, ad aprile si riparte, abbiamo già un po' di date fissate di quelle che ricordo, Roma, Pescara, Taranto, mi sembra ci sia Bologna anche a maggio, non ricordo il giorno, ma mi sembra a maggio passo anche da Bologna. Sì, ci sono comunque, magari seguendo anche i miei canali, lì posto tutto quanto, quindi chiunque volesse interessarsi in qualche modo, quello è il modo. Perfetto, poi rilanceremo allora diciamo, la tua musica a ridosso della data di Bologna, così ricordiamo di venire ad ascoltarti. E ti chiederei allora a questo punto se hai voglia di salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori con un'altra canzone estratta da Belli Dritti sulla schiena e anche se hai qualcosa da dirgli, non so, per convincerli ad ascoltarti. Qua non sono bravissimo nel fare quello. Ti posso dire però la canzone che faremo partire, che è Credo, che è il terzo brano del disco, se non sbaglio, e che poi è anche il secondo singolo che è uscito con tanto di video. Perfetto, allora sarà la Credo che musica a dobbiate parlare per venire ai te. miei concerti, ecco, forse è quello. Credo che dobbiate venire ai miei concerti, quantomeno così per Perfetto. insultarmi. Ma no, io direi anche per ascoltarti e applaudirti invece, perché a noi, ad esempio, questo brano e questo album è piaciuto molto, quindi invitiamo anche tutti, insomma, gli ascoltatori e le ascoltatrici a seguirti. Ti ringraziamo Grazie, tantissimo grazie. allora per, insomma, aver fatto questa chiacchierata con noi, per aver condiviso la tua musica e, beh, insomma, buon proseguimento, direi, per questo album e per tutta la tua carriera musicale. Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.